via cavo dentro dentro, gustavo come pochi, tipo Rocky, non fa male se ti centro, sai sarà un buon giorno come Mike, come mai, come uomo sai mi capita di essere Irie High, pure senza sbamba, tipo samba, questa traccia stramba smuove la tua gamba, e sale come rampa, calura che t'avvampa nella pampa, con la zampa, what a pam pam, pare che abbia andata abbastanza, quanto a seghe mentali, sa che senza speranza, spari addosso e fa tanza, mo danza su sta musica blanda, come Biugi la manda, intorno a questa banda c'è più landa che bonanza, e tipo giro vedo il cielo in una stanza, sta baldanza d'assonanza della rima romanza, come Messi spaparanza sopra il beat, sopra avanza il vecchio mojo, bigio, Biugi stile spleen, giambi di tirambi, illuminati, illuminanti, allucinanti, tipo gambi, più che Gandhi, sono pacifici, stilistici, mistici, rustici, plastici, capisci, ti riunisci, ti gusta, visciti. Trastullano la mente, senti a me che non c'è niente che ti valga, tanto vale che tu salga, venga a galla, che non resti nella melma come un'alga, tanto il mare picchia uguale, tanto vale attraversare questo sale, sollevare la tua capa verso il sole, solamente chi lo vuole vuota il sacco con se stesso, muove scacco il suo complesso, comprendi, mi intendi, riprenditi, dimmi che non t'arrendi a questi orrendi giorni, che se prima scendi dopo torni su, attraversando tono su tono di blu, butta tutti i tuoi tabù, stile libero, SVHC, anche senza T, vado avanti tutti i santi D, già sapevi che ero qui, che ci arrivavo, come viene, come sai, sono sempre più Gustavo, e me ne sto Gustavo, Gustavissimo. Gustavo fosse un nome di battesimo, ma da ste parti è soprattutto stato d'animo, dice sì paronimo, sto gustavesimo, ma di minimo miniamo sto malanimo, non ti biasimo, tutto è sempre più sintetico, mi sento dentro Asimov, basta un attimo, a stoppare sta deriva destinale stile vattimo, e fatti mo due conti, come uomini non siamo vili, vilipendi a chili, sti pensieri sono ficcanti più piccanti del buon chili, imposto questo ritmo, ti impasto l'incantesimo, in pista se ti gusta il gustavesimo, e mo, me ne sto Gustavo, Gustavissimo, Gustavissimo.